Na radio al teatro. Quindi, eccomi. Allora, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Oggi è 15 novembre 2010 e quest'oggi, di lunedì appunto, continueremo quello che è un evento che è iniziato lunedì scorso con Paolo Pavan, ossia il jazz al teatro. Siamo qui al Teatro Faranume e fra poco una grossa band sta entrando la band e calpesterà il palcoscenico del Teatro Faranume. Con noi questa sera ci saranno gli Oprachina Band, che presenteranno sotto licenza Creative Commons un evento che dovrà accadere, che ci onora perché sto anche troppo alto con il volume. Sto cercando anche, signori, di regolare quello che... No, faccio io perché, caro mio cocot, comunque si sente bene, cioè io mi sento bene. Se qualcuno è connesso con mille mics in questo momento che sta ascoltando i preparativi prima che inizi la diretta, siete pregati tutti quanti cortesemente di dirci come si sente in questo momento la nostra diretta. Chi lo sa. Allora, dicevo, oggi siamo veramente contenti perché quando è nato questo progetto, cari nostri ascoltatori, è nato con la voglia di portare su questo palco delle formazioni, dei personaggi che a noi piacevano realmente, non così per modo di dire. Loro ci piacciono realmente e una di queste formazioni sono appunto gli Oprachina, che ci hanno onorato questa sera. A venire a suonare qui al Teatro Faranume di Ostia Lido per la rassegna stagionale di jazz. Vorrei ricordare che questo è il primo evento del 13° municipio di Roma che prevede una stagione intera di jazz. E è organizzata, guarda un po', da chi? Dillo un po', Cocot, chi è che ha organizzato questo stupendo evento? Nartra Radio Roma. Fantastic. Dicevo, gli Oprachina fra poco calpesteranno, bassiamo un pochino, mi dicono dalla regia, calpesteranno il palcoscenico del Teatro Faranume e saranno i componenti che andranno a calpestare questo palco saranno Massimo Bognetti alla chitarra, Enrico De Fabritis al saxofono. Poi gli ultimi due li vuole dire Cocot, ma non glieli faccio dire. Fabio Fochessato al basso e contrabbasso e Adriano Gallinari, alla batteria. Per voi stasera ci saranno gli Oprachina. Vi ricordo che l'evento è solamente ed esclusivamente Creative Commons. Questa sera ci sono altre radio a mandare in diretta il nostro evento Jazz al Teatro, tra le quali penso, spero, ma non è un problema perché avremo altri lunedì per mandare i nostri concerti in diretta, sono Radio Ballarò, che li salutiamo, Reset Radio la salutiamo, The Open Radio, che salutiamo Mister Dario, e poi Radio Pazza. Però penso che Radio Pazza non sarà in diretta sul web, ma sarà qui dal vivo. Saranno qui con noi infatti Bach e Prisma, i due ragazzi che hanno aperto Radio Pazza e che mandano podcast anche loro Creative Commons. Perciò aspettiamo un attimo e fra un po' avremo un'intervista che Mr. Cocot ha fatto negli studi, anzi che sta facendo negli studi di Nartra Radio Roma agli Oprachina. Gli Oprachina sono qui e Mr. Cogot tra un poco li intervisterà. Stay tuned. Esatto, caro Coco. Penso che adesso mi devo preparare le mie domandine per farle all'Oprachina. Loro sono qui, stanno arrivando, che si sono mangiati il pezzo di pizza, ma sono qui, li vediamo, che arrivano ai nostri studi. Vabbè, ok. Allora, caro Cocot, mentre tu ti prepari per fare l'intervista, forse bisogna alzare qui, scusate, ancora preparazione. Questa è l'anteprima, questa è proprio, ragazzi, questa è... che cosa è questa? Questa è l'anteprima a quello che è l'evento che poi si terrà alle 9. Quindi abbiamo deciso di anticipare di 50 minuti l'evento, proprio perché... sì, arriviamo. Proprio perché volevamo raccontare questa cosa. Intanto, caro il mio Cocot, lo vedo che ha raggiunto i camerini e io gli passerei la linea per l'intervista. Proviamo a passare la linea a Mr. Cocot. Bene, eccoci finalmente alla seconda puntata di Jazz al Teatro, organizzata da Natra Radio Roma, il teatro farà nome. Come avete già sentito in questa settimana, l'8 novembre abbiamo avuto qui nei nostri studi per un'intervista da parte di Mr. Gasperino Paolo Pavan Quartet, che poi si è esibito sul palco del Teatro Faranume in un concerto di 1:20 e la risposta è stata molto positiva. La gente è venuta, naturalmente non è stato un pienone, ma la gente era appassionata ed è rimasta contenta del concerto e di tutta l'organizzazione, sia loro che noi di Nartra Radio Roma e del Teatro Faranume. Comunque, prima puntata passata, primo live concert passato, ora passiamo alla seconda puntata. Qui con noi, nei nostri studi, prima del concerto, che sarà fra un quarto d'ora e 20 minuti, abbiamo gli Oprachina. Gli Oprachina da Roma, che stasera andranno sul palco e faranno un bel concertino e presenteranno l'ultimo loro CD, che, sorpresa sorpresa, sarà in circolazione, penso, il prossimo anno. Comunque, adesso per voi qui, vicino a me, gli Oprachina. Prego, Oprachina, presentatevi e dite i vostri nomi e soprattutto cosa suonate. Prego. Ciao, sono Adriano Galinari e sono la batteria. Ciao, Fabio Fochesato, basso elettrico, contrabbasso. Ciao, Enrico De Fabritis, sassofoni. Buonasera, sono Massimo Bognetti, chitarra. E dai, va Massimo, proprio te che hai risposto per ultimo, voglio farti una domanda che sia noi che dell'Arte di Roma, che quelli che vi hanno scoperto e ascoltato su Giamendo, forse si chiederanno, o forse sarà solo una domanda che mi chiedo io. Cioè, qual è la storia artistica degli Oprachina e soprattutto, importante, da dove proviene il nome della band? Perché noi, scherzando anche in radio, dicevamo le prime volte che vi abbiamo conosciuto, questi qua non sono romani, questi sono brasiliani, perché il loro nome si dice Oprachina do Brasil. Comunque, a parte gli scherzi, e vai Massimo, dici il significato del nome della band e la storia artistica degli Oprachina. Vai Massimo, a te il microfono. Allora, Oprachina esiste da circa 8 anni. Nasciamo in partenza come duo, Massimo Bognetti e Fabio Fochesato, e collaborando con vari musicisti nel corso degli anni, tra i quali Stefano Taglietti, oggi compositore contemporaneo di una certa importanza, Carl Potter, percussionista di chiara fama, e successivamente Stefano Pacioni alla batteria e Mauro Iannuccelli, pianista, per un certo periodo. Diventa poi quartetto stabile con Enrico De Fabritis e Adriano Gallinari alla batteria, Enrico De Fabritis ai sassofoni. Per quanto riguarda il nome, Oprachina è l'unione di due parole, opra come opera e china intesa come fatica. È un termine italiano presente nell'Internazionale e nelle lettere anche di D'Annunzio, per cui ci troviamo, galleggiamo in cultura italiana. E perfetto, allora adesso che sappiamo la vera radice del vostro nome e soprattutto le dispute sono finite qui in mezzo a noi, Dici un po' come vi siete avvicinati al mondo della musica jazz e perché proprio il jazz? Il jazz per noi è stato un linguaggio, ma ormai il jazz è europeo, insomma, dopo gli anni 70 è diventato, ha preso una sua strada rispetto al jazz afroamericano, e difatti poi le nostre matrici sono molto europee, parliamo di soft machine, parliamo di tutto il progressive inglese, parliamo del free, anche quello tedesco che si è sviluppato appunto negli anni 70, quindi il jazz è comunque un linguaggio che usiamo, ma non è l'unico. Ok, allora adesso che siamo passati dalle presentazioni, incominciamo a entrare un po' in particolare, a fare un po' di domande un po' più specifiche e soprattutto, volevo sapere, noi della radio abbiamo voluto puntare su un progetto, quello di portare musica in un ambiente come può essere il teatro, trovando anche un riscontro positivo dagli artisti e dalla gente che insomma ci ascoltava anche se da poco. E questo ha fatto nascere in me una curiosità che mi chiedevo se attraverso la radio noi abbiamo avuto una tale risonanza positiva sia dagli artisti che dal pubblico. Ma la situazione attuale dell'arte musicale a Roma qual è? A Roma la situazione è male per quanto riguardano gli spazi sicuramente. C'è poca attenzione delle istituzioni, insomma c'è attenzione probabilmente per un livello alto più conosciuto che ha visibilità, meno per le proposte che poi sono forse più interessanti dal punto di vista artistico. Ci sono tanti gruppi, tanti ottimi musicisti, ma appunto gli spazi sono pochi, e questa iniziativa al teatro è sicuramente positiva anche per questo, cioè uno spazio in più, uno spazio nuovo che speriamo prosegua nel tempo. E anche noi di Un'altra Radio Roma speriamo che questa iniziativa prosegua nel tempo e sia eterna, e che gli Operachina possano tornare qua a suonare, che ne so, fra un po' di anni, e vedere il teatro stracolmo e tutti che parlano jazz al teatro. Vabbè, ma a parte scherzi, parlavamo appunto della diffusione musicale a Roma e di come la scena è a Roma. Ma a riguardo vi faccio una domanda: il vostro ultimo lavoro, del quale presenterete dei brani stasera, ho saputo che verrà pubblicato il prossimo anno dall'etichetta scozzese Slam di George Haslam. Come avete trovato questa etichetta e soprattutto medite il livello professionale di interagire con una realtà che non sia come al solito italiana? Quali sono le differenze sostanziali tra lavorare in Italia e all'estero a livello musicale e anche a livello di mentalità e di apertura per nuovi generi che non siano sempre i soliti? Grazie, vai raga. C'è un problema di tutela poi, sottoscrivendo un contratto chiaro e limpido, e noi appunto ci sentiamo tutelati perché non c'è l'arma a doppio taglio della joint venture, chiamata così, del comprarsi tutti i dischi e poi tenersi a casa e sostanzialmente non avere né promozione né distribuzione. In Inghilterra abbiamo trovato una situazione più entusiasmo e più voglia di fare. Sì, c'è meno paura di fare proposte nuove. In Italia casomai viene più premiata la visibilità commerciale di alcuni artisti, quindi l'Italia arriva sempre dopo. Sicuramente all'estero c'è più attenzione alle nuove proposte, perché sanno che la qualità della proposta artistica comunque avrà un riscontro anche commerciale nell'ambito, nel contesto. Sì, è un problema di etica, cioè eticamente corretto verso il musicista. E poi insomma c'è una divisione di compiti che in Italia non abbiamo trovato. Abbiamo contattato, per quanto riguarda le etichette, quasi tutte le possibili alternative italiane, ma non abbiamo avuto un riscontro, se non che stiamo ancora aspettando delle risposte. Nel frattempo si è presentata questa occasione, altri amici comuni avevano presentato un progetto a questa etichetta britannica che ci ha dato in pochi giorni, noi stessi l'abbiamo fatto e in pochissimi giorni ci ha spedito il contratto e insomma, anche siamo inseriti in un catalogo sicuramente più consono a sì, più consono proposta, più alla prossima proposta. Perciò, come appunto forse, o no forse, come appunto si sa la differenza sostanziale tra l'estero e l'Italia, è soprattutto la ricerca, penso, no? La ricerca di nuove sonorità e di dare soprattutto la possibilità a tutti di esprimersi. Cioè io mi esprimo, dico la mia, suono la mia, poi se c'è un riscontro è meglio per me. Se no, se non ce l'ho, io però ho avuto la possibilità di presentare quello che io penso e quello che io suono. Comunque, passiamo a un'altra domanda. E soprattutto, la prima volta che vi ho ascoltato, adesso mi ricordo su Gemendo che sarà stato 8-9 mesi fa, e devo ringraziare Mr. Gasperino perché è lui che vi ha scoperto all'inizio e poi mi ha detto: senti sto gruppo, senti che figo, ascoltali e bla bla bla. Perciò, appena vi ho ascoltato mi siete piaciuti subito, soprattutto per l'approccio free jazz che avete con le composizioni. E da amante di Eric Dolphy, Charles Mingus e anche di tanta roba krautrock, appunto, che veniva dalla Germania negli anni 70, di quell'improvvisazione con pezzi lunghissimi e infiniti, di cui devo ringraziare mio padre che mi ha fatto una capoccia così con Pink Floyd, King Crimson. Insomma, volevo sapere qual è stato l'artista che vi ha aperto le menti dell'improvvisazione, eh? E se tuttora c'è qualche artista contemporaneo, anche non famoso naturalmente, che vi entusiasma, che vi dà ancora quelle emozioni che vi davano, che ne so, tanta roba che voi naturalmente avrete ascoltato negli anni 70. Vai, Obraghina, illuminatemi. Come ho detto prima, io sono Fabio. Quello che è stato il jazz europeo, il jazz progressive europeo, la sperimentazione, ci mettiamo i soft machine, possiamo pure parlare di Pink Floyd, di Amma Gamma, o queste sono stati sicuramente dei riferimenti. Poi il jazz americano è poi sicuramente maestro, i grandi maestri del americani per ognuno, sì, e anche il sì, Eric Dolphy, Mingus, sicuramente sono nostri riferimenti in parte, perché comunque la ricerca delle melodie, delle improvvisazioni, cioè è, secondo me, non è molto più spontanea, non sicuramente un'imitazione di qualche cosa che abbiamo ascoltato. Sicuramente la filtriamo e ne facciamo, spero, buon uso, insomma. Sì, gli stessi Dolphy, poi, come diceva appunto Cocotte, alias, e appunto sono Mingus, Dolphy, lo stesso Coltrane, il linguaggio loro è universale, non relativo solamente al jazz. Infatti. Un jazz proprio completamente diverso da quello che vogliono promuovere oggi o... Anche all'inizio, Massimo, quando vi ha fatto un piccolo excursus di chi ha suonato con noi, ecco, Stefano Taglietti è un compositore contemporaneo, fa musica contemporanea, quindi ha una matrice sicuramente più classica. O Carl, che ha suonato con noi, è un percussionista latino, suona con Pino Daniele, suona con il Banco, con la PFM, quindi poi i riferimenti che noi utilizziamo sono appunto vari, come i musicisti che hanno suonato anche con noi, o anche come gli ascolti che facciamo, visto che veramente ascoltiamo di tutto e ci siamo cimentati anche in varie cose. I nostri stessi pezzi sono alcuni totalmente scritti, quindi non hanno parti improvvisate, alcuni sono molto improvvisati e cerchiamo solo di lavorare su delle situazioni, e quello sicuramente rispecchia quelli che sono i nostri, appunto, riferimenti musicali. Io sono Enrico e io parto da King Crimson. Ah sì, King Crimson. King Crimson, che in pratica è molta improvvisazione, progressive, e partendo da là sono passato ai sassofonisti americani, jazz, da Parker fino a John Coltrane, per poi frequentare la musica totalmente improvvisata, il free jazz. Però si sa che quando si fa musica totalmente improvvisata si ha bisogno anche di schemi ben riconoscibili per liberarsi anche da troppa libertà. E con Obraghina lavoriamo, come diceva Fabio, su schemi prestabiliti, ma anche su situazioni che si basano solo sulle diciamo così, su quelle che sono le parti libere che usano solo il suono, senza dover pensare a nessun tipo di schema. Sì, poi abbiamo gli innamoramenti, allora quanto mi riguarda c'è il momento, il periodo in cui si ascoltano le big band, lo swing, e quindi si prendono elementi da lì, o il jazz rock, o il funky, la musica latina, quindi ci sono anche i periodi. Abbiamo anche un pezzo, Latte, che di fatto è una nostra lettura di tutto quello che abbiamo assimilato dalla musica latina, che poi ci mettiamo tutto, questa è la bossa nova, la samba, il jazz samba, le letture che One Short, ecco, un grande riferimento. Abbiamo fatto un disco mai uscito su una parte dell'opera di Shorter, che lui pure rilesse tutta la parte, portò il Brasile negli Stati Uniti, fu il primo a fare sicuramente alla fine una sintesi nuova nel jazz americano di quella che è stata la musica brasiliana, per esempio. Quindi i riferimenti, appunto, sono vari e cambiano anche nel tempo. E poi non ci dimentichiamo la grande componente, noi andavamo ad ascoltarli appena possibile, suonavano nelle piazze in tutto, molto semplicemente gli area sono stati straordinari, cioè ci hanno dato quella libertà di poter dire anche facciamo una piccola cosa, però in questa piccola cosa viviamo questa piccola cosa. E questi gli area, insomma, siamo cresciuti poi con i riferimenti italiani che c'erano qui negli anni 70-80, appunto gli area e Perigeo. Per gli artisti contemporanei ce ne sono tanti, ma non famosi perché non riconosciuti, in quanto il sistema premia solo chi vende di più. Questa è una cosa negativa, perché voglio dire, c'è tanta gente, c'hanno tanti musicisti che hanno un livello altissimo, che comunque lavorano, ma sempre nelle situazioni di serie B o serie C, chiamiamole così, come la vostra iniziativa, che potrebbe sembrare non all'apice di quella che è la conoscenza. Grazie. Ecco, queste cose devono essere fatte sempre più spesso, in quanto devono dare spazio a tutti i musicisti, a tutti gli artisti che comunque si preparano, che vivono di questo e che vogliono lavorare e che vogliono mettersi in luce. Anche perché poi la gente li va a cercare, li ascolta, poi riscontro nel contatto dell'utente finale, che diciamo così. E questo è un bellissimo teatro in cui abituati ai locali rumorosi, antiacustici, la possibilità di suonare in teatro non credo sia da tutti, almeno per noi poi è un po' una novità, sicuramente. Per noi è più un esordio, e quindi siamo felicissimi di questo. Oh, dopo questa domanda mi fate emozionare, però vi ringrazio per i complimenti. Per quanto riguarda, anche noi siamo entusiasti per l'evento che si suona appunto nel teatro, appunto l'atmosfera, e non stare lì con la caciara, con la gente che beve e parla con altre persone e distrattamente ascolta l'artista. Infatti la cosa che noi puntavamo, noi di Un'altra di Roma, era l'artista che sta in teatro, suona e sta lì per far ascoltare le proprie cose mentre il pubblico lo ascolta e non è distratto da nessun'altra cosa. Insomma, io dopo questa domanda, che ho visto che avete anche nominato i grandissimi Area e soprattutto Perigeo, che non so quanta gente li conosca, forse e chi ascoltava appunto quel progressive anni 70, essendo noi di Un'altra di Roma molto appassionati, avendoci un excursus nei primi anni 90 di un gruppo che appunto c'è più, dove suonavamo progressive insieme anche a Mr. Brontolo e andavamo a suonare nella saletta di Mr. Gasperino, e insomma è stato un bel periodo dove facciamo progressive, ma che ormai non c'era più progressive, lo facciamo soltanto noi. Vabbè, comunque, dopo questo excursus temporale negli anni che sono passati, volevo chiedervi a voi, Massimo, Fabio, Adriano e soprattutto Enrico, che casualmente ho scoperto attraverso Massimo che lui è stato il mio maestro di sax nella scuola in cui insegnate etnofonia a Casalbertone, dove io nel 2001-2002 venivo a imparare a suonare il sax, appunto, di Enrico. Vabbè, dopo questa cosa, insomma, quando suonate, quali sono le vostre emozioni e che cosa cercate di arrivare quando suonate un pezzo ed un pezzo è finito e dite: oh, da paura, questo è grande, mi è piaciuto, ho sentito che andava e che non avreste mai smesso di suonarlo, insomma. A voi la parola, Oprachina! Allora, Etnofonie è un posto dove si studia musica e si suona anche. Noi abbiamo inciso questo disco che... Il secondo che uscirà, insomma, che appunto... Sì, è il nostro quartier generale, anche perché poi tutta la gente, i ragazzi che gravitano intorno alla scuola ci hanno dato una mano anche nel dare visibilità al progetto. E quando suoniamo il pezzo lo sentiamo nella pancia, quando suona bene dentro allora vuol dire che è giusto. E sicuramente, facendo riferimento a tante parti improvvisate, probabilmente ci sta la volta in cui siamo più contenti di come è venuto, altre volte meno. Noi cerchiamo sempre di tenere però uno standard alto, quello è l'obiettivo, almeno emotivo, interiore. C'è molto interplay sicuramente poi nella nostra musica, o almeno cerchiamo di mettercelo quanto più possiamo, di raggiungerlo, sì. Parlare di emozioni, quando si parla di musica si parla di entrare in un mondo parallelo dove non esiste più il tempo, cioè viene annullato lo spazio-tempo e si vive coi suoni, cioè si interagisce con i suoni. Quando si crea, come diceva Fabio, un giusto interplay, si ferma tutto e si vive in quello che è l'ambito dell'anima del musicista, e quando c'è un pubblico che riesce a percepire, di solito quando si crea l'interplay giusto il pubblico riesce a percepire, anche il pubblico vive di queste cose. Quando il pezzo è finito si rientra nel mondo terreno e ci si gode quel momento di essere stati dall'altra parte. Io infatti insisto sempre nell'affermazione, forse non è presuntuosa, ma oggi viviamo senza entusiasmo, specie girandoci intorno, e noi cerchiamo con la nostra musica di sovvertire quello che è oggi, quello che sembra sotto apparire a tutti gli occhi, cioè un presente che è già passato. Noi siamo contro questa. Stiamo combattendo come voi e come altri che parteciperanno a questa rassegna, dove ci sono delle cose effettivamente diverse. Poi starà agli altri giudicare se siano più o meno di altre oppure valide o meno. Però ci sono, noi ce la mettiamo tutta, come voi. Grazie. E comunque ce la mettiamo noi, ce la mettete voi. Stasera, dopo questa ultima domanda che vi farò, andate sul palco e spaccate tutto, veramente. Siamo contenti di avervi conosciuto e di avervi trovato, soprattutto. E questo dobbiamo anche ringraziare sia il sito di Giamendo, in cui viene diffusa la musica attraverso la licenza così famosa e fantomatica che sta diventando adesso del circuito di Nartra Radio Roma e di tutti i suoi concerti e di tutti i suoi podcast, le licenze Creative Commons. Perciò voi perché avete deciso di promuovere le vostre opere attraverso questa licenza? E adesso che mi viene in mente, vi voglio anche aggiungere e dire una cosa sia a voi che alla gente che ci sta seguendo e a tanti artisti che stanno ascoltando questa intervista o ascolteranno il concerto, che adesso esistono anche delle marcature temporali, cioè un procedimento con valore legale che permette di attribuire data ed ora certa ad un documento informatico, tutelandolo legalmente rispetto ad eventuali plagi. Perciò ci sono alcune associazioni, alcune anche web radio come Radio Ballarò di Palermo o Sub Cava Sonora di Napoli o la Patamu di Roma, che fanno queste marche temporali, delle marcature digitali che sono legalmente riconoscibili. Perciò passate queste informazioni, appunto, che andavano dette, perché sono importanti. sia per il nostro progetto di Nartra di Roma che per i concerti di jazz al teatro e per quanta gente vuole passare alla Creative Commons. Comunque andiamo con la prossima domanda, che sarebbe questa in pratica, come ho detto: perché Creative Commons? Vai, sfogatevi. Beh, riguardo Giamendo, è stata un'avventura che ci ha permesso di essere, diciamo, conosciuti un po' in tutto il mondo. La stessa cosa noi l'abbiamo messa a ottobre, Paolo Pavan l'ha messa a novembre, che ha suonato la settimana scorsa qui al teatro al Faranume di Ostia, l'ha messa a novembre, e tutte e due abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Ora Giamendo è, riguardo l'affermazione fatta prima, eticamente corretto verso il musicista, è così, ma verso sia il musicista principiante sia il musicista magari che suona nei teatri, cioè mettere sull'arena il gruppo, su un'arena a questo punto mondiale, e il gruppo, il musicista, e se l'artista, se piace poi la gente che l'ascolta. Insomma, noi l'abbiamo fatto un po', non dico scettici, ma sicuramente senza renderci bene conto di che cosa fosse. In realtà la situazione si è esplosa tra le mani. Insomma, noi siamo penso sui 120.000-130.000 scaricamenti in tutto il mondo del nostro primo disco, che è uscito in Creative Commons, di cui solo 30.000 da Giamendo, più gli altri a quel punto da tutti gli altri siti da cui è stato possibile poi scaricarlo. Quindi abbiamo avuto riscontri, comunicazioni da tutto il mondo, parliamo degli Stati Uniti, dal Sud America, dall'est, dalla Nuova Zelanda, un po' da tutto il mondo. E quindi vuol dire che c'è un mezzo alternativo per proporre l'arte, per la propria proposta artistica, e c'è gente che è pronta ad apprezzarla, se vale. Quindi noi adesso siamo stati anche premiati al MIDEM, che è una delle più grosse fiere del mercato multimediale, come il disco italiano più scaricato. Non appunto Jazz Farm, è quello disponibile in Creative Commons su Giamendo, e sicuramente è un cammino lento, perché molti artisti ancora non capiscono questa potenzialità, però sono sicuro che è inesorabile, e nel lungo periodo sarà il veicolo di tutela maggiore degli artisti e anche di conoscenza di musica, che sicuramente arriva al cuore di tante persone che l'ascoltano. Quindi Creative Commons è sicuramente una tutela delle opere che aiuta l'artista e aiuta anche l'ascoltatore, il fruitore delle opere. E poi tramite tutto questo, insomma, c'è un interagire, per esempio l'organizzazione di questa rassegna, la conoscenza dei musicisti. Noi abbiamo conosciuto Paolo Pavan, il suo gruppo, Pasqualino Baldini, che sarà fra due settimane, e Mazzaccaro Walter, che verrà a suonare a Roma. Insomma, si è creato un circuito che, seppur faticosamente, perché poi la vita è faticosa, però si è creata una sorta di sinergia e di circuito, proprio, anche perché senza circuito poi tutto la musica, e non solo la musica ma il teatro, il cinema, non va, cioè non si muove. Sì, i canali tradizionali sono ad oggi, con la modalità di scambio informazione rapida che dà la rete, che dà internet, sì. Il canale tradizionale arriva in ritardo, non capisce dopo, quindi già il discorso delle etichette prima, le major hanno già difficoltà a vendere i prodotti, che siano di jazz, che siano di pop o di qualsiasi altra musica. Le piccole etichette, le etichette di nicchia, specialmente in Italia, hanno difficoltà a mettere attenzione, perché si muovono in binari tradizionali che non sempre arrivano all'utente finale, mentre in questa maniera si riesce ad arrivare direttamente a bypassare il tutto. Certo, sicuramente noi lavoreremo poi con la Slam, che è un'etichetta un po' più tradizionale, ma in Inghilterra, dove appunto, diciamo, abbiamo detto prima, c'è sicuramente più attenzione anche a queste altre modalità di distribuzione e di visibilità delle varie proposte degli artisti. Sì, poi c'è da dire una cosa, ormai per dire la distribuzione non esiste più. Ti dicono, ti distribuiscono, sì, quella fisica, ti distribuiscono online a prezzi esorbitanti, a cose che non esistono, mentre invece abbiamo visto che in Inghilterra c'è ancora il conto vendita, quello che c'era una volta. Sì, senti, sì, per tornare un attimo al discorso di prima. Sì. Questo vuol dire ammazzare la musica, e questo è il discorso che si riallaccia a quello precedente, per il quale ogni musicista poi si deve non solo produrre, ma anche poi gestire coi soldi sempre l'eventuale distribuzione che non esiste. Quindi questa è una cosa, questo sempre l'etica verso il musicista che non esiste più, quindi l'invito è per tutti. Però mi sa verso che la Creative Commons mi sa che ci chiamano sul palco, eh. Ci prepariamo per il concerto. Sì, ci prepariamo. Ok, vai, puoi andare. Salutiamo, adesso. Ciao. Grazie dell'attenzione, speriamo che tutte le parole che abbiamo speso dopo. Ciao a tutti, ragazzi. Cioè, siano confermate dalla vostra. Ma sicuramente, ok. Allora, attenzione. Okay. Ciao a tutti, ciao ragazzi, andate sul palco, vai, che la gente vi sta aspettando. Tra poco partirà il jingle che presenterà la seconda puntata di Nartra Radio Roma Jazz al Teatro, qui al Teatro Faranume, dopo Paolo Pavan Quartet, gli Oprachina Jazz Band, che presenteranno pezzi dell'album vecchio, pezzi dell'album nuovo che licenzieranno sotto etichetta Slam, appunto la scozzese. Appunto ne abbiamo parlato in un'intervista all'inizio, e prima di tutto volevo ringraziare principalmente gli Oprachina per essere venuti qua e averci dato la possibilità di presentarli sia a voi che al teatro, che a Ostia, a Roma e a tutto l'ambiente jazz che verrà qui stasera, e soprattutto sperando che, appunto come dicevano gli Oprachina, si crei una scena, artisti in Creative Commons, artisti che si sono conosciuti qui, si sono conosciuti attraverso la radio, di creare una scena dove si può diffondere questa musica licenziata sotto un'altra licenza che non è SIAE, e che possa prendere piede piano piano piano e avere un luogo come il teatro dove la gente può esibirsi senza nessun problema, solo per far sentire la propria musica. Perciò Nartra Radio Roma, Mr. Cocot vi salutano e vi aspettano tra pochi minuti sul palco per la diretta streaming su 1000 Mics e per tante altre avventure insieme fino alla fine. Ciao ragazzi, un grande daje da Mr. Cocot. Thank you.